Capitolo 37, 20 dicembre 1825. Un altro anno è passato, sono stanca di questa vita, ma non posso sognare di liberarmene. Non importa quanto sia triste per me stare qui, perché non posso andare via e lasciare il mio piccolo solo in questo mondo, oscuro e crudele, senza qualcuno che lo aiuti ad attraversare i labirinti più intricati, lo metta in guardia dai tanti rischi, lo difenda dai pericoli. Non sono adatta a essere la sua unica compagnia, lo so, eppure nessuno può sostituirmi qui. Sono troppo seria per mettermi a giocare con lui, come dovrebbe fare una bambinaia o una madre. Il suo entusiasmo mi turba, mi irrita, perché vi rintraccio le inclinazioni del padre e ne sono terrorizzata. Quindi spesso smorzo la sua allegria quando dovrei invece parteciparne. Il padre, dal canto suo, non sembra invece afflitto da alcuna tristezza e non teme per il futuro di suo figlio. In particolare, la sera, quando passa più tempo insieme a lui, è affettuoso e amabile, disposto a scherzare con tutti, tranne che con me, mentre io sono lì, mesta e silenziosa. Chiaramente il piccolo preferisce stare con il padre, così allegro, divertente e permissivo, così come lo preferirebbe in qualsiasi altro momento. La cosa mi angoscia molto, e non solo per l'amore di mio figlio, che pure è importantissimo per me, sento di averne diritto e di aver fatto molto per meritarlo, ma soprattutto per l'ascendente che vorrei sforzarmi di avere, per il suo bene, e che il padre invece si diverte a sottrarmi per provocazione, solo per fare un torto a me e rovinare il figlio. Per fortuna Arthur non passa molto tempo a casa e nei lunghi periodi in cui è a Londra o altrove ho modo di recuperare il terreno perduto e opporre il bene al male che lui ha deliberatamente seminato. Certo, è difficile, poi, osservare come al suo ritorno si impegni a vanificare i miei sforzi e trasformi il mio angelo innocente, mite e dolce, in un bambino prepotente, indisciplinato e dispettoso. Il terreno giusto per gli stessi vizi che lui ha perversamente coltivato. Grazie al cielo, lo scorso autunno non abbiamo avuto ospite nessuno dei suoi amici. È andato invece lui da loro, e io vorrei che lo facesse sempre più spesso e che avesse tanti amici, così affezionati a lui da volerlo tenere anche tutto l'anno. Il signor Hargrave, sfortunatamente, non l'ha seguito e io credo di avere davvero chiuso con lui. Ha continuato a comportarsi in modo impeccabile per altri 7 o 8 mesi, tanto da convincermi a rinunciare a ogni diffidenza. Avevo iniziato a considerarlo un amico e comportarmi di conseguenza, mantenendo certo delle cautele che comunque non ritenevo necessarie, e di colpo ha deciso di servirsi della mia innocente gentilezza per varcare i confini della misura e della lealtà che aveva mantenuto fino a quel momento. Era una bella serata di fine maggio e stavo passeggiando in giardino quando lui, passando, mi ha vista, è sceso da cavallo e, lasciandolo al cancello, è venuto a salutarmi. Era la prima volta che veniva a trovarmi senza la madre o la sorella, o senza la scusa di recapitarmi un messaggio da parte loro, da quando ero rimasta nuovamente sola. Eppure si mostrò così disinvolto e tranquillo, così rispettoso, che io, sebbene fossi sorpresa, non mi sentivo urtata o preoccupata dalla libertà che si era preso. Passeggiò accanto a me, all'ombra dei frassini e fino al laghetto, trattando i più vari argomenti con grande brio e intelligenza, prima che iniziassi a pensare a come liberarmi di lui. Ci fu un momento di silenzio, in cui entrambi stavamo contemplando l'acqua calma e limpida, io pensando a un modo per congedarmi e lui, a sua volta, preso da ragionamenti altrettanto estranei a ciò che stava vedendo e ai dolci suoni che udiva, quando mi colse alla sprovvista iniziando a parlarmi in un tono molto particolare, basso ma perfettamente udibile, dichiarandomi più sinceri e appassionati sentimenti d'amore, sostenendo i suoi argomenti con audacia e al tempo stesso grande contegno. Lo interruppi presto, però, offesa eppure dispiaciuta che fosse a tal punto tenebrato, e rifiutandolo con tanta determinazione da convincerlo ad andarsene, sgomento e mortificato. Di lì a un paio di giorni seppi che era partito per Londra. Dopo Dopo 8 o 9 settimane tornò e, sebbene non cercò di evitarmi completamente, cambiò del tutto comportamento nei miei riguardi, tanto che sua sorella, una buona osservatrice, non mancò di accorgersene. «Cosa avete fatto a Walter, signora Huntington?» mi domandò una mattina in cui ero andata al Grove a trovarla, notando il modo in cui lui aveva lasciato la stanza dopo qualche freddo convenevole. «È stato talmente freddo e formale negli ultimi tempi che non capisco proprio che cosa gli prenda, a meno che non l'abbiate offeso profondamente. Se volete dirmi di che si tratta, mi propongo come mediatrice per farvi tornare amici.» «Oh, non l'ho certo offeso per un mio capriccio», le dissi. «Chiedete a lui se è offeso e per quale motivo.» «Lo farò subito», esclamò avventata, alzandosi in piedi e raggiungendo la finestra. «È proprio qui in giardino. Walter!» «No, Esther, per carità, dovrò arrabbiarmi se lo fate. Me ne andrò e non tornerò più per mesi, anni.» «Mi volevi, Esther?» le domandò il fratello avvicinandosi alla finestra. «Sì, volevo sapere. Vi saluto, Esther», le dissi stringendole con forza la mano. «Volevo sapere se puoi cogliermi una rosa per la signora Huntington.» Lui si allontanò. «Signora Huntington, non vi riconosco», disse lei, girandosi verso di me e continuando a tenermi la mano. «Siete irascibile, distaccata proprio come lui, e non voglio lasciarvi tornare a casa prima che siate tornati amici.» «Sei davvero maleducata, Esther», scattò la signora Hargrave, che era lì in poltrona con il suo lavoro. «Quando imparerai a comportarti come una signora?» «Mamma, ma non sei stata proprio tu a dirmi?» La madre la zittì alzando un dito e scrollando severamente il capo. «È davvero arrabbiata», mi sussurrò Esther. E non feci in tempo a rimproverare la mia volta che il signor Hargrave ricomparve davanti alla finestra tenendo in mano una bella rosa muschiata. «Eccoti la rosa», disse. «Perché non gliela dai tu, zuccone?» esclamò lei, liberando velocemente lo spazio tra di noi. «Sono certo che la signora Huntington preferisce che sia tu a dargliela», disse lui in tono serio, ma a bassa voce perché sua madre non lo sentisse. La sorella a quel punto prese la rosa da lui e me la porse. «Con i migliori omaggi da parte di mio fratello, signora Huntington, e la speranza che possiate chiarirvi al più presto, dico bene, Walter?» disse sfacciata, abbracciando il fratello che era appoggiato al davanzale. «O avresti preferito che le avessi detto quanto ti dispiace essere tanto permaloso, o quanto speri che lei possa perdonare la tua offesa?» «Non dire sciocchezze, non sai di cosa parli», le ha risposto lui con aria grave. «È vero, non ne ho idea.» «Ora basta, Esther», intervenne la signora Hargrave, la quale, pur ignorando le ragioni di tanta freddezza, aveva capito che sua figlia stava tenendo una condotta alquanto insolente. «O dovrò chiederti di lasciare la stanza.» «Oh, lasciate stare, signora Hargrave, tolgo subito il disturbo.» E così dicendo me ne andai. Una settimana dopo, il signor Hargrave accompagnò sua sorella a farmi visita. Si dimostrò, come al solito, freddo, distaccato, vagamente altezzoso e malinconico, eppure ferito. Tuttavia, Esther si risparmiò ulteriori commenti. Evidentemente aveva capito di doversi comportare meglio. Conversò con me e si divertì con il piccolo Arthur, che le era molto affezionato e che lei adorava. Il bambino la persuase a uscire per correre con lui verso l'ingresso e fuori in giardino, causandomi un certo imbarazzo. Mi alzai per badare al fuoco. Il signor Hargrave mi domandò allora se avessi freddo e chiuse la porta. Una premura alquanto inopportuna, giacché avevo deciso di raggiungere i chiassosi compagni di gioco nel caso in cui non fossero tornati subito. Ebbe l'audacia di venire anche lui accanto al camino e domandarmi se fossi al corrente del fatto che il signor Huntington era ospite di Lord Loughborough al momento, presso il quale si sarebbe fermato ancora un po' di tempo. «Non lo sapevo, ma non ha alcuna importanza», risposi con freddezza, e se ero arrossita violentemente era stato per la sua domanda più che per la notizia in sé. «Non vi opponete?» domandò. «No, finché Lord Loughborough ritiene gradita la sua presenza.» «Non lo amate più, dunque?» «Assolutamente no.» «Ne ero certo. Sapevo che siete dotata di un'intelligenza troppo nobile e che la vostra natura è troppo leale per coltivare nei riguardi di un uomo tanto ipocrita e corrotto sentimenti che non siano di sdegno e disprezzo.» «Pensavo che fosse un vostro amico», gli dissi fissandolo dritto negli occhi con uno sguardo colmo, forse, di quegli stessi sentimenti che riteneva meritasse l'altro. Lo era, mi rispose grave e pacato come prima. Ma non vorrete offendermi pensando che avrei potuto mantenere la mia stima e la mia amicizia nei confronti di un uomo che ha abbandonato in modo tanto crudele e disonorevole una donna così. E va bene, taccio, ma ditemi la verità, non pensate mai di vendicarvi? Vendicarmi? E perché? Non servirebbe certo a rendere lui un uomo migliore, né me una donna più felice. Signora Huntington, mi sorrise, siete una strana creatura, voi, metà umana e metà angelica. La vostra grande bontà mi turba, mi mette soggezione. Ne deduco, signore, che siate un uomo peggiore di quanto dovreste, se una comune mortale come me è tanto superiore a voi come dite. Dal momento che abbiamo così poco in comune, sono certa che sarebbe meglio se trovassimo entrambi una più affine compagnia. Così dicendo, mi avvicinai alla finestra per cercare mio figlio e la sua giovane e vivace amica. Sono un comune mortale come tutti e non sarò peggiore dei miei compagni, questo ve lo posso confermare. Allo stesso modo vi confermo che voi, signora, non avete uguali. Siete felice? Mi chiese serio. Felice, come tutti, immagino. Felice quanto desiderate? Ah, la beatitudine non è di questo mondo. Di sicuro, disse lui con un profondo sospiro, triste, anzi amaro, siete molto più felice di me. Questo mi dispiace, dissi a quel punto. Parlate sul serio? Sono portato a pensare di no, altrimenti vi offrireste di consolarmi. Oh, lo farei se non rischiassi in questo modo di fare del male a me stesso o a qualcun altro. Pensate che io voglia che vi facciate del male? Niente affatto. La vostra felicità mi sta a cuore ancor più della mia, e ora voi siete infelice, signora Huntington. Mi incalzò, guardandomi sfacciatamente negli occhi. Non ve ne lamentate, ma posso ugualmente vederlo, sentirlo. So che siete infelice e tale resterete finché vi ostinate a cingere di ghiaccio inespugnabile il vostro cuore ancora caldo. Anche io sono infelice. Regalatemi un sorriso e mi farete felice. Datemi fiducia e lo sarete anche voi, poiché siete una donna e io posso consentirvi di esserlo fino in fondo, anche se vi opponete, disse tra i denti. Avete parlato di altre persone, ma in realtà la faccenda è tra noi due soltanto. Sapete bene che non potete offendere vostro marito e la questione non riguarda nessun altro. Io ho un figlio, signor Hargrave, e voi una madre, risposi allontanandomi dalla finestra presso la quale mi aveva raggiunta. Ma non devono per forza saperlo, disse. Ma ecco che prima che chiunque di noi due potesse aggiungere altro, Esther e Arthur rientrarono in casa. La giovane notò che Walter appariva arrossato in volto ed eccitato e io, a mia volta, dovevo apparirle turbata, lo riconosco, ma per ragioni diverse. Sicuramente pensò che avessimo discusso animatamente e si mostrò sgomenta e a disagio, ma le buone maniere e la paura di scatenare l'ira del fratello la trattennero dal fare un qualsiasi commento. Si accomodò sul divano, ravviandosi gli splendidi riccioli biondi che le ricadevano disordinatamente sul viso, e prese a raccontarci del giardino e del suo piccolo amico, con la consueta vivacità, finché Walter le disse di prepararsi a tornare a casa. Se ritenete che sia stato troppo ardito, vi prego di perdonarmi, mi disse prima di andarsene, altrimenti non riuscirei a perdonare me stesso. Esther mi guardò con un sorriso e io risposi con un semplice cenno del capo, e a giudicare dalla sua espressione dovevo averla scontentata. Giudicò senz'altro che fosse un riscontro alquanto deludente il mio rispetto alla prodiga istanza di Walter. Povera ragazza, conosce ancora così poco il mondo. Hargrave da allora non mi incontrò più da sola per molte settimane, e quando accadde notai che il suo atteggiamento era meno orgoglioso e più malinconico. Oh, quanto mi irritava! Per questo motivo mi sentii costretta a diradare le mie visite al Grove, con il risultato che la signora Hargrave se la prese e la povera Esther, che apprezzava tanto la mia compagnia e non aveva nessun altro, né era giusto finisse pagare per gli errori di suo fratello, si intristì moltissimo. Eppure, Il mio nemico era instancabile e tutt'altro che scoraggiato. Passava spesso davanti alla casa guardandosi attorno. Se non ero io ad avvistarlo, lo faceva Rachel. Era dotata di una vista acuta e aveva capito come stavano le cose tra noi. Quindi osservava la situazione dalla finestra della stanza del bambino e se riteneva che lui si aggirasse ancora nei paraggi e sentiva che volevo uscire a fare una passeggiata, mi avvisava garbatamente per evitare che lo incontrassi o che lui stesso mi raggiungesse vedendomi passare. In quel caso, rimandavo la passeggiata o magari restavo all'interno del nostro giardino. In caso di uscite che non mi era possibile rimandare, come quelle per andare a far visita a qualcuno che era malato, le chiedevo di accompagnarmi e questo mi risparmiava di venire infastidita. Era un'assolata giornata ai primi di novembre e io mi ero recata da sola alla scuola del paese e poi a far visita ad alcuni dei nostri fittavoli. Mentre tornavo a casa, mi allarmai nel sentire alle mie spalle uno scalpitare di zoccoli e qualcuno avvicinarsi al trotto. Non essendoci scale né passaggi per tagliare verso i campi, continuai a camminare pensando: forse non è lui. E se invece fosse lui e mi infastidisse, sarà l'ultima volta, poco ma sicuro, ammesso che le parole e gli sguardi possano qualcosa davanti a tanta insolenza e a un'infatuazione così durevole. Il cavallo mi raggiunse e si arrestò accanto a me. Era in effetti il signor Hargrave. Mi offrì un saluto cortese e malinconico, sebbene fosse troppo evidentemente compiaciuto di essere riuscito a raggiungermi da non poterlo nascondere. Ricambiai il suo saluto e gli domandai come stessero le signore del Grove. Dopodiché ripresi a camminare. Lui però continuò a seguirmi e fu evidente che era sua intenzione accompagnarmi fino a casa. Ah, peggio per lui, se proprio vuole subire un ennesimo rifiuto, pensai tra me. Insomma, signore, cos'altro c'è? Non pronunciai a voce alta questa domanda, ma non dovetti aspettare per avere comunque una risposta. Dopo qualche vago commento su argomenti casuali, iniziò con parole solenni questo nuovo appello alla mia umanità. Con aprile saranno 4 anni da quando vi ho vista la prima volta. Forse l'avrete dimenticato. Io non potrei mai. Vi ho ammirata subito. Tuttavia non osavo amarvi, mentre il successivo autunno ho potuto vedere così tanto della vostra perfezione che non ho potuto farne a meno, sebbene non osassi rivelarlo. Per i seguenti 3 anni ho vissuto un martirio assoluto, con l'angoscia di dover sopprimere le mie emozioni, con i miei desideri così intensi e vani, la mia pena silenziosa, le speranze infrante, i sentimenti calpestati. Ho sofferto più di quanto possa dire a parole, o più di quanto voi possiate immaginare. Ne eravate voi la causa, e non una causa innocente, in fondo. La mia giovinezza sta passando, il mio futuro è grigio, la mia stessa vita un deserto, non ho requie di giorno come di notte e sono ormai un peso per me stesso e per gli altri. Potreste salvarmi con una sola parola e non volete farlo. È così. Prima di tutto io non vi credo, gli risposi. E in secondo luogo, se siete davvero tanto sciocco, io non posso farci niente. Se mi dite che considerate il più nobile, il più forte impulso della natura dell'uomo una sciocchezza, allora sono io che non vi credo. So bene che non siete affatto crudele e algida come vi mostrate. Avevate un cuore un tempo e l'avete offerto a vostro marito. Una volta che avete capito quanto fosse immeritevole di un tale tesoro, ve lo siete ripreso. Non vorrete farmi credere di aver amato quel vizioso materialista e immorale al punto da non poter amare più nessuno. Sono sicuro che vi siano dentro di voi dei sentimenti ancora nascosti e che vi sentiate infelice in questa solitudine. Potreste dunque salvare 2 creature dal tormento, offrendo loro la gioia di un amore generoso, nobile e altruista, perché voi potete amarmi. Continuate a dire che mi disdegnate, ma seguendo il vostro esempio vi dirò che non ci credo. Voi non volete. Credete sia meglio che rimaniamo tutte e due nell'infelicità, dicendo che è la volontà di Dio? Chiamatela pure religione, se volete. Io la chiamo fanatismo. C'è un'altra vita, sia per voi che per me, dissi. Se Dio ha voluto per noi questa sofferenza oggi, è perché possiamo godere in futuro di altre gioie, senza ferire nessuno, per soddisfare le nostre passioni terrene. Avete una madre, due sorelle e amici che soffrirebbero questo disonore. Dal canto mio non metterei a rischio la pace interiore dei miei amici per il mio piacere, né tantomeno per il vostro. Se anche fossi completamente sola, mi resterebbero comunque Dio e la fede, e mai potrei consapevolmente venire meno a questa vocazione, in cambio di qualche anno di felicità, destinato comunque a finire nel dolore, sia per me che per altri. Un disonore, dite, signora Huntington, insistette. Non vi chiederei certo di abbandonare la vostra casa, né di sfidare l'opinione altrui. Ma a che scopo ripetere qui le sue subdole argomentazioni? Feci del mio meglio per oppormi, sebbene fossi furiosa e imbarazzata che mi si rivolgesse in quei termini, e le mie argomentazioni fossero troppo deboli, non riuscivo a mantenere sul mio pensiero e sulle mie parole il controllo necessario. Impossibile zittirlo a parole, dato che, anzi, lo vedevo compiacersi del suo vantaggio e irridere le affermazioni che non avevo più la lucidità di provare. Allora tentai un'altra strada. Voi mi amate sul serio? Gli domandai fermandomi e guardandolo dritto negli occhi. Sì, vi amo. Siete sincero? A quel punto lo vidi cambiare espressione, convinto di essere vicino al trionfo, e iniziò a farmi una esaltata dichiarazione della sincerità del suo affetto, che io però interruppi, facendogli una seconda domanda. Eppure non è il vostro un amore egoista? Mi amate abbastanza da sacrificare il vostro piacere in favore del mio? Darei la vita per voi. Non è certo la vostra vita che voglio, ma che abbiate compassione delle mie pene abbastanza da volerle alleviare per quanto a scapito di una vostra rinuncia. Mettetemi alla prova, allora. Ecco, allora, se è così, vi prego di non tornare mai più su questo argomento, poiché non sarebbe possibile affrontarlo nuovamente senza rischiare di aumentare quell'infelicità del mio cuore che dite di compatire con tanto sentimento. Non mi resta che il conforto di tenermi la coscienza pulita e la fede in Dio, e voi vorreste che rinunciassi a entrambe? In questo modo, se insistete, dovrò ritenervi il mio peggior nemico. Oh, ascoltate, no! Mi avete appena detto che dareste la vita per me. Io vi chiedo solo di non affrontare mai più questo argomento. Sono stata chiara e vi ho detto infine cosa penso, e se mi tormentate ancora, dovrò pensare che le vostre dichiarazioni di affetto siano bugiarde. Si morse le labbra e abbassò lo sguardo. C'è stato un momento in cui non eravate spesso a casa, gli dissi. Non vi nuocerà allontanarvi di nuovo per un po', se dite che è tanto necessario. Se mi sarà possibile, mi corresse. E così mi lasciate andare? È questo che volete? Sì, se non vi è possibile incontrarmi senza angustiarmi, come avete fatto negli ultimi tempi, sarò felice di salutarvi e di non vedervi più. Senza altre parole, si chinò sulla criniera del cavallo e mi porse la mano. Lo guardai. I suoi occhi esprimevano tanto sincero dolore, dovuto forse alla delusione, forse all'orgoglio ferito, all'amore o alla rabbia, che non potei fare a meno di tendergli la mia. La strinse forte, poi spronò il cavallo e partì a galoppo. Seppi pochi giorni dopo che era a Parigi, dove è ancora. E più ci resterà, meglio sarà per me. Ti ringrazio, mio Dio, d'avermi liberata di lui.